D'Agostino. Il tuo sognare e il tuo sapere immaginare, e tutto questo ti fa viaggiare, viaggiare. E tutto questo ti fa viaggiare. Fuori dal mondo. Sì. Bello, bello, bello questo qua. Bello. Mi piace. Cos'è? The Final Countdown. The Final Countdown. Artista. Il folclorista. Dal mondo normale siamo lontani. Sulle mani. Amici ascoltatori, chiamate i vostri genitori, abbracciateli forte e stringetegli la mano. E stringetegli la mano. Il cammino è quotidiano, ogni giorno alle 18. Se una tale notizia si diffondesse, assisteremo alla cessazione immediata dei più comuni servizi in tutto il mondo. Disordini, isterismo religioso di massa, il caos totale, si può immaginare. Il più cupo capitolo della Bibbia. Te dico ferma, vero? Love.

got to do what you got to do. You got to do what you got to do. Vaffanculo. Vabbè, quella è sta roba. Pubblicità. M2O e Newmark al SIB di Rimini. The best audio and video technology. Dall'11 al 14 marzo la migliore musica con i DJ di M2O. La migliore tecnologia con Newmark. E dall'11 al 13 marzo in diretta dal SIB. Out of Mind, mixa and selecta dal vivo Provenzano DJ. M2O al SIB di Rimini. Stand Newmark dall'11 al 14 marzo. Questa non te la puoi perdere. Leggero come una piuma, brillante nelle funzioni, elegante nella forma. È arrivato il nuovo Samsung SGH X200, il cellulare che unisce il design classico alla tecnologia del futuro. Samsung SGH X200 è un telefono tri-band con viva voce integrato che vi permetterà di parlare liberamente in qualsiasi situazione. Samsung X200, una sorpresa che non vi deluderà. Provatelo nei negozi Wind di telefonia. Samsung, that's the way I like it. M2O, musica allo stato puro. È uscita la nuova compilation. 14 brani mixati. Traccia CD-ROM. E il nuovo cortometraggio musicale con tutti i DJ di M2O. M2O, musica allo stato puro. La nuova compilation di M2O. È nei negozi di dischi e nelle edicole. A 9,90€. M2O. Musica allo stato puro. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica. Musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica. Musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Full time, you're making me busy, pumping the junk into my mind. Notice I have to, but yours is the full time, you're making me busy, pumping the junk into my mind. Notice I have to, but yours is the full time, you're making me busy, pumping the junk into my mind. Notice I have to, but yours. se emozionarmi o meno. Io credo che il nostro lato emozionale segua un suo percorso, non dettato dalla ragione, per fortuna, fratello. Semplicemente artista Gigi D'Agostino. We'll be right back. D'Agostino. In mezzo alla carreggiata. Vabbè, quella è sta roba. Fammi capire, è più o meno o è proprio così? È più o meno così. Lento però, violento. Lento però, violento. Lento però, violento. Lento però, violento. Mi sembra buono. Padre contro figlio, padre

D'Agostino. Non è un programma molto preciso, ma è fatto da un cuore molto deciso. Al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Un disco anziano ci porta lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è... la sigla? Sta puntata, mo mi faccio sta cantata. C'è già sotto il mio tassista, sono Gigi il folclorista. Non ti devi rattrista, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu fai il bravo tutti i giorni. Ogni giorno io t'aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Mo la sigla va a sfumare, perché devo respirare. Care Motion, è uscito il nuovo mensile dedicato alla personalizzazione dell'auto. Nel numero di marzo, l'Alfa 159, rivista da Zatti Sport, sfida impossibile. Ford RS 200 contro Focus ST, Covini C6W, supercar con 6 ruote. Care Motion, emozioni in movimento, in tutte le edicole, a solo 2 euro. A Filadelfia, è l'una del pomeriggio. Su M2O sono le 7. Real Trust, Real Trust. Su M2O. Una storia vera. Raccontata in un